Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser. Sto saltando, vi sentite saltare? Ma un pochino, ma così, perché ti vuoi allenare. Sì, esatto, brava. Ora, fa freddo. Ora sudo. Sì, bravo. Sì. Bentornati. Abbiamo fatto un po' un'assenza di qualche puntata, perché tra malattie, febbri, tossi, treni che ritardano, tragedie varie, sì, è stato un po' una... come dire, un patire, un'odissea. Ma adesso siamo tornate e finalmente facciamo una puntatona che era circa 16 mesi che volevamo fare, quindi ce la siamo preparata con grande solerzia. Prima di ciò però, e di dirvi anche di cosa si tratta, diciamo le tecnicaglie, ovvero direttawombat.vado.li, il pad se volete parlare con noi, chiacchierare con noi in diretta, postawombat@insiberia.net, la posta per scriverci lunghe mail di complimenti, altrimenti radiowombat.net in generale, il sito al quale ascoltarci. E vi mancherebbe la frequenza non de medie 13.59, ma ahimè abbiamo un drammatico problema tecnico che devo dire non ci affliggeva da qualche tempo. Abbiamo cantato vittoria e quindi solerte come la sfiga e la morte, è tornato un problema tecnico. Quindi pazientate, attualmente se provate ad ascoltarci non demedi sentirete solo un fruscio, quindi aspettate un pochino e poi magari, anzi non magari, sicuramente tornerete a riascoltare il ruggito del Wombat. Quindi. Esattamente. Allora, introduciamo di l'argomento parliamo? Di oggi con una musichetta evocativa, ma soprattutto l'ospite di oggi, però musichetta evocativa. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Guarda, no, io ho quasi l'audio, sinceramente. No, dai, io lo voglio te la balli tutta. Bene, ma... Allora, chi abbiamo qui con noi? Benvenuto Serezo, che ci ha fatto il piacere di essere qua con noi. Ciao. Buonasera. E sì, qui parleremo di Natale, non è vero? Non parleremo di Natale. No. Non parleremo di Natale, parleremo però di neve, un po' ci entra la neve. Questo è il motivo per cui vi abbiamo fatto questa introduzione scema, perché parleremo oggi dell'Eternauta. E boh, la neve c'entra, dai. Se non c'entra la neve... Sicuro non la pioggia. Quindi parleremo di Eternauta. Beh, immagino che non abbia bisogno di lunghe presentazioni, sicuramente non da parte mia. L'approfondiremo con calma e con dovizia di particolari. Ecco, c'è da dire, la scaletta di oggi potrebbe coprire circa 16 puntate, credo, 17 forse. Quindi abbiamo deciso di provare a stringere, anche se non vi garantiamo che ci riusciremo, e probabilmente ne verranno fuori almeno due di di puntate. Quindi oggi cominciamo, e cominciamo con una un po' un intro sia biografica degli autori, il contesto storico nel quale è stato scritto e partorito l'Eternauta, e poi inizieremo ad addentrarci un po' in questo fumetto molto complesso e molto interessante, ovviamente. Quindi partiamo da un intro. Intanto scusami, non ti ho minimamente presentato. Cerezo è qui con noi in veste sostanzialmente di appassionato, perché come noi non siamo esperte, non siamo professoroni a non si sa dove, ma siamo sicuramente molto appassionate. Te quindi sei leggermente nerd sul tema. Cerchiamo, sì, nella galassia chi ne sa di più, ecco. Sì. E abbiamo trovato chi ne sa di più in questa galassia. Esatto. E quindi direi iniziamo un po' dalla, se ti va, da una intro biografica degli autori e di come nasce l'opera. Esatto. Allora, l'autore, il padre principale, lo sceneggiatore, che è Hector Hermann Oesterheld, che è inizia la sua carriera in realtà come geologo, è laureato in geologia, gira per i cantieri in giro per l'Argentina, però a quanto pare si rompe un po' i coglioni a fare il geologo e comincia a correggere bozze per una casa editrice, non ancora di fumetti, e a scrivere racconti divulgativi per ragazzi. A un certo punto viene notato da un certo Cesare Civita, noto come Cesar in Argentina, che è un personaggio molto particolare, credo sia il primo direttore editoriale di Topolino in Italia, ma nel 38 arrivano le leggi razziali, lui era italiano nato a New York, pensa bene di dire: ma sai che ho capito Topolino, ma io sono ebreo, vado in Sud America. E Cesare Civita crea un grosso polo del fumetto, senza dilungarci su questo, che andando a pescare tantissimo in Italia, Alberto Ongaro, Ugo Pratt, tanti fumettisti che danno una spinta all'industria del fumetto argentino, che è, a livello anche di diffusione culturale ha delle tirature notevoli. All'inizio Hector non è così convinto di poter fare fumetti, ma lui gli dice: ma tu hai letto tutti i romanzi d'avventura possibili, Salgari, Wells, ho letto le tue opere, sei perfetto per questo. Comincia con delle opere di grande successo, tra cui velocemente possiamo segnalare Sergente Kirk e Bull Rocket. Sergente Kirk è particolare perché un disertore della una tuta blu che dopo la guerra civile americana diserta durante una strage di nativi. Una tuta blu, scusa, io ovviamente ho pensato agli operai, perché Fiat nel cervello. Blu. un nordista, no, so io, Focassino, Lucia Vera, ci scrivono sul pad e dicono: geologo come Leo Ortolani. Tutti i grandi sono geologi. Esatto. I grandi sono geologi. E a un certo punto cambiano lavoro. E poi, insomma, a un certo punto lui ha un'insoddisfazione con questo editore Civita, che è dovuta dal fatto che comunque gli vengono imposti personaggi nordamericani e ambientazioni nordamericane, e lui ci tiene a fare cose latinoamericane e argentine, quindi fonda, credo nel 1955-56, l'editorial Frontera, con la quale pubblica Ernie Pike, disegnato da Pratt, che sono storie di guerra in cui il protagonista è questo cronista di guerra, come opera importante. Varie opere come Ticonderoga, in cui il tema dei nativi nel West americano viene raccontato in un'ottica anticoloniale e senza il classico eroismo del pistolero bianco, e soprattutto la sua opera principale, L'Eternauta, che inizia a uscire nel settembre del 57 a puntate, con il giovane disegnatore Francisco Solano Lopez, di cui poi parleremo un po' dei dati biografici. E L'Eternauta, introduciamo brevemente il tema, è una sorta di Guerra dei Mondi Argentina, lui sostiene che all'inizio la sua idea era di fare una cosa molto breve, di poche tavole, poi ne sono uscite una quattrocentina di pagine. Sì, infatti fosse un po' sgrezzato. Lui, che lui aveva pensato a Robinson Crusoe, a Stevenson, solo che invece di essere circondato questo uomo alla deriva nel disastro dal mare, da una nevicata mortale. Cosa succede? Veramente in breve. Succede che in un normale giorno qualsiasi ci sono questi quattro amici riuniti a giocare a truco. Abbiamo... Aspetta, truco cos'è? Giusto, truco è un gioco di carte. Mio fratello. Un gioco di carte che non ti saprei dire a quale gioco somiglia, comprende... il bluff, quindi magari un italiano ti può dire che somiglia ai 3-7, uno Yankee che somiglia ai poker, non lo so, bisognerebbe giocarci. No, ok. E insomma, è la classica serata in cui loro stanno nel loro scantinato, dove si dedicano al fai da te, sono appassionati di radio. Il protagonista, Juan Salvo, è un piccolo imprenditore, ha una piccola industria meccanica, poi c'è il banchiere Lucas Herbert, il professore di fisica Favalli e il pensionato Polsky, il vecchio pensionato. Perché Polsky, ricordiamoci che in Sud America, in particolar modo in Argentina, l'emigrazione italiana boom. Sì. Certamente. E in tutto questo, mentre loro sono a giocare a carte, nel frattempo classica famiglia degli anni 50, la moglie e la figlia sono in un'altra stanza a non disturbare gli uomini. Certo. Che si insultano mentre giocano a calcio, a carte, la storia inizia. Vabbè, siamo lì. Su argentini, a giocare a carte, insomma, a un certo punto vedono che c'è questa nevicata. E dicono, ma com'è che nevica fuori stagione? E vedo anche, cioè, i passanti, boom, giù, muoiono. Uno esatto. Si affaccia alla finestra, boom, tira il calzino. E ora, senza poi continuare, poi espanderemo il discorso, da qui parte una situazione che porta a un'invasione aliena e loro, arrangiandosi, devono rigovernarsela e sopravvivere. Capire anche cosa sta succedendo. Esattamente. C'è da dire che ho questo ricordo stampato in testa del momento, uno dei momenti più topici della pandemia, quando, se non ricordo male, a marzo, aprile, comunque un momento in cui era ancora abbastanza caldo e noi eravamo chiusi in casa, come vi ricorderete benissimo, lockdown piano, a un certo punto, almeno a casa mia, inizia a nevicare di brutto. E io vi giuro che ho proprio detto, vai, ci siamo, è andata, arrivano. Finito, è andata così, tutte l'Eternauta aveva ragione. Quindi hai chiuso tutto, hai scocciato sì, le finestre. No, chiaramente casa mia non c'ha possibilità di salvezza. Allora sei spacciata, cioè, effettivamente. Sono completamente spacciata, non ci posso neanche provare, è un unico grande spiffero, quindi ho detto, vabbè, è andata così. Poi però ho visto che comunque il gatto non moriva, io ero viva, ho detto, vabbè. Dai, forse. Quindi fondamentalmente abbiamo un'invasione aliena imprevista e soprattutto con mezzi mai visti, una popolazione ambientata in Argentina negli anni 50. Metà degli anni 50, quindi con la tecnologia degli anni 50, quindi una tecnologia avanzata, l'Argentina era comunque un paese occidentale avanzato, ma comunque negli anni 60, quindi non ci sono le mute spaziali che vediamo in altre opere, ma come dici tu, ci si deve arrabattare. Questo è un po' il plot. Cioè, anche a capire chi è, che cosa vuole, qual è l'obiettivo, chi sono. Insomma. Soprattutto, giustamente accennavi già un po' te, siamo in un contesto che è quello particolare dell'Argentina di quegli anni. Quindi magari sì, iniziamo a introdurre un po' anche il contesto in cui scrive questa sceneggiatura, come abbiamo visto, abbastanza lunga e complessa, e che ovviamente avrà molti accenni, più che accenni, proprio dei rimandi molto precisi alla situazione attuale. Allora, L'Eternauta comincia a uscire su Ora Sera nel settembre 1957, cioè due anni dopo il colpo di Stato contro Juan Domingo Perón, chiamato Rivoluzione Libertadora, Rivoluzione Liberatrice, perché nel dare, diciamo, la destra cattolica filoamericana ha un talento nel dare i nomi. E quindi è la rivoluzione liberatrice che passa per bombardare il Parlamento, per fucilazioni extragiudiziali, sulle quali c'è un romanzo di Rodolfo Walsh, anche lui morto armi in pugno, non desaparecido. E in generale, comunque, si dice spesso che l'Eternauta sia una visione del futuro, una grande premonizione, ma è stato scritto dopo un colpo di Stato. La seconda versione è stata scritta durante una dittatura militare. Non è che si stava inventando. È stato ripubblicato subito dopo, è arrivata un'altra dittatura militare, la più grossa, quella di Videla. Il seguito è stato scritto in clandestinità durante, cioè non serviva durante la terza dittatura militare, non servivano grandi doti divinatorie, no. Bastava vivere in Argentina. Evidentemente. Sì, infatti. Sicuramente c'è un'universalità nel concetto della dittatura. Della dittatura. E allora sì. Lì ci puoi trovare qualcosa, ma... E credo che l'opera tenda a questa universalità, perché leggendola in spagnolo io mi aspettavo di trovare l'uso del vos, molti termini argentini, e invece usa uno spagnolo estremamente piano, semplice, senza particolari termini locali, è pieno di riferimenti locali, geografici e culturali, certo. Ma nella lingua no. Quindi probabilmente l'idea era interessante sta cosa. Che fosse facilmente comprensibile anche per un boliviano e per uno spagnolo. Certo. E sì, per il resto i riferimenti ci sono riferimenti all'epoca, alla paura di una guerra nucleare tra il blocco occidentale e il blocco sovietico, in un momento in cui si trovano a esplorare davanti a queste creature di cui poi vedremo che non si sa bene cosa sono e cosa potrebbero fare, dicono ma qui noi si va in giro, siamo come la cagnetta laica. E qui una bella citazione. Sì. Che non... cioè, come un cane sparato su un missile nello spazio, per chi ha mandato a morire. La citazione. Sì. Finaccia, diciamo. Sì. Una finaccia. Sì, però c'è subito un senso di abbandono dovuto al fatto che loro la prima cosa che fanno ovviamente è cercare di collegarsi con la radio, essendo dei radioamatori, e all'inizio sentono solo dei fruscii, poi cominciano a sentire, a percepire varie stazioni e loro cominciano a capire che l'America Latina non è particolarmente contemplata nei piani di salvezza dell'umanità. Sì, diciamo che in molte opere, quando di disastri, la prima parte è sempre attendere gli aiuti, che arrivi qualcuno. Tendenzialmente poi non arrivano questi aiuti, in particolar modo qui si rendono conto che non c'è niente che possa arrivare a dargli una mano. Sì, devo dire, se ne accorgono anche abbastanza in fretta, ecco. Sì. E iniziano a rimboccarsi le maniche abbastanza in fretta. Però sì, effettivamente è chiaro che il riferimento colonialista, se vogliamo chiamarlo così, è abbastanza smaccato, nel senso si vede che non con un certo, non so se stupore, comunque a un certo punto in maniera conclamata, come dicevi giustamente, si rendono conto che gli aiuti non arriveranno e in generale... ci sono altri piani per questo paese, diciamo. Ora, questo è il contesto nel quale viene scritto l'Eternauta, poi magari andiamo un po' a scandagliare meglio come si dipana la vicenda e quali sono i riferimenti strada facendo che si trovano. Io ho una cosa da dire in più sulla radio, perché è interessante. La radio che viene usata all'interno dell'Eternauta, siamo ambientato, ribadiamo, nella fine della seconda metà degli anni 50, è un trasmettitore a valvole che trasmette in M, non trasmette in FM, quindi siamo molto contenti, tra l'altro, visto che anche noi andiamo in AM e sono radioamatori. Non è autocostruita, ma beh, non male. È una roba per amatori, però è interessante perché negli anni 60, all'inizio degli anni 60, ci sarà il passaggio invece al transistor, cioè la radio farà un salto, un cambio di tecnologia, diciamo. Loro sono ancora nel pezzo prima. Tra l'altro le radio in onde medie in, in America Latina in realtà sono a tutt'oggi ancora molto attive, molto diffuse, sono radio molto spesso comunitarie e magari con come dire, modalità un po' diverse da quelle che ci aspettiamo qua e che conosciamo qua, però sono spesso radio di gruppi, di associazioni, di comunità appunto locali e c'è un enorme ascolto. Quindi, non, come dire, il riferimento era, sì, è quello degli anni 60, ma in fondo non è cambiato tantissimo, forse, da questo punto di vista. Tranne i transistor. Quello sì. Quindi, ora, però, in realtà, ora non so se sto seguendo la scaletta, ma ci introduce anche un po' magari Solano Lopez, che forse invece non abbiamo... Sì. Francisco Solano Lopez è un all'epoca un giovane disegnatore a 25 anni che ha collaborato con presso l'editore presso il precedente editore con Solano Lopez e viene scelto come disegnatore di questa opera. Lui racconta anche tra l'altro che le indicazioni sul disegno di Oester erano estremamente libere. Lui andava a casa di Oesterheld in quella che poi vediamo essere la casa di Hector che vediamo all'inizio e alla fine dell'Eternauta perché è la sua, è lui e facevano una chiacchierata e poi gli arrivavano questi fogli scritti a mano da interpretare. Per esempio lui dice ma no, che Juan Salvo è biondo, l'ho deciso io. Ok. E Francisco Solano Lopez inizia a disegnare presso Fumetti, presso l'editore Civita, disegna credo Bull Rocket e il suo grande capolavoro certo è l'Eternauta. Poi negli anni 60 si sposta in Gran Bretagna dove disegna Adam Eterno, Kelly Sai, quello che noi chiamiamo supereroica, anche se non difficile sapere quali sono le sue storie perché ci sono migliaia di autori e comunque questa roba qui di propaganda eroica postbellica. E torna in Argentina, torna a lavorare poi con Oesterheld soprattutto per l'Eternauta DOS, che per noi è l'Eternauta il ritorno. Nel 1977, una volta qui il discorso si fa complesso perché stiamo saltando dei passaggi, comunque con la dittatura militare e i problemi che comporta, poi saremo più specifici, emigra in Spagna dove completa il secondo Eternauta mentre Oesterheld è prima in clandestinità e poi desaparecido. Esatto, ricordiamoci appunto, parliamo di quelle dittature sì, là, quelle sì. Desaparecidos. E poi continuerà a lavorare nei fumetti sia come anche autore e sceneggiatore e soprattutto con Riccardo Barreiro che riprenderà alcuni temi dell'Eternauta, più si dà opere particolari tendenti quasi alla pornografia come l'Istituto, il postribolo del terrore, che è un dramma storico in cui ci sono Conan Doyle, Freud, una cosa abbastanza delirante, introvabile. E poi pubblicherà altri albi e anche un altro Eternauta, seguito dell'Eternauta in 4-5 volumi, che devo ancora leggere quindi non commenterò. Io è morto credo nel 2010-2011. Ah, quindi io l'ho visto a Lucca poco prima. Ah, che bello! Sì, ho un disegno, sono felicissimo. Ah. E niente, Francisco Solano Lopez è un grande disegnatore, un po' come la moglie di Oesterheld tende sempre a esprimere la preoccupazione del fatto che questo si farà ammazzare, cosa che poi è successa. Quindi diciamo non era in così. Questa storia l'altro personaggio importante che è il disegnatore della seconda versione del primo Eternauta, che ha lo stesso titolo, che esce nel 1969, che è Alberto Breccia, nato in Uruguay, un grandissimo disegnatore, lui lavorava nell'industria della carne, più o meno raschiava la trippa, cosa che non gli piaceva molto, a lui piaceva disegnare, quindi comincia a lavorare nelle riviste del quartiere E piano piano si comincia a presentare come disegnatore, illustratore ai giornali e comincia a scrivere, a disegnare fumetti. La sua prima grande opera indicativa è Morsinder, scritta sempre da Hector Oesterheld, 3 anni dopo la fine dell'Eternauta. Nel 62 ha un tema simile, c'è un eroe, chiamiamolo così, che viaggia nel tempo e c'è sempre questo tema del controllo, del potere. E un'altra opera importante, di cui non avremo tempo di parlare, è Perramus, che è il primo grande, grandissimo romanzo a fumetti scritto da Juan Sastorain dell'Argentina Democratica, che racconta in maniera estremamente ironica e avventurosa la dittatura, in cui i militari sono presentati come scheletri. E un altro tema importante, senza poi dire altro, è che introduce il tema del bipolarismo di stile statunitense o britannico che tanto piace a noi, in cui ci sono i manifesti elettorali con due diversi scheletri, uno vestito in un modo, magari più di destra, uno più di sinistra, è o sì o sì. Beh, benissimo. E qui possiamo chiudere il tema per Ramus, perché richiede una puntata da solo. E 2011 morte di Lopez. Solano Lopez, credo 2010. No, controllato, 2011, 12 agosto 2011. E tra l'altro, cosa strana, lo stesso nome di un ex presidente del Paraguay, sì, Francisco Solano, sì, Lopez proprio. Sì, sì, vabbè, è discendente di, sì, di militari e politici paraguayani. Ah, quindi sono discendente, suoi. Discendente. Io direi che forse possiamo prenderci una piccola pausa sempre musicale e poi continuare a indagare l'Eternauta. Assolutamente, andiamo forse un po' più, lo contestualizziamo un pochino di più. Sì, di nuovo. Così, la neve che cade, ripartiamo proprio dall'inizio. Insomma, restate con noi, parliamo dell'Eternauta appunto e di tutto ciò che c'è intorno, del contesto storico che ha portato alla sua scrittura, a un po' gli argomenti che sono nascosti, neanche troppo, dentro l'opera. Quindi rimanete qui con noi, Radio Wombat, alle porte di Tannhäuser. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. en piedras blancas y turbias corrientes. Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. De tus bardas quiere rayen dormirse, tiembla en sus entrañas enamorada. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba. Significó además una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro? Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta, que da el nombre a la historia, es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco. Chico. No. No, el ferretero es o... No, no, Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión. significó además. E ripartì. Bentornati, ben ritrovate al Porta di Tannhäuser. Stiamo parlando dell'Eternauta. Avete appena sentito un'intervista. Che cos'era questa intervista? Questa intervista era un'intervista di Hector Hermann Oester da Radio Belgrano del gennaio 1976. Quindi siamo a due mesi dal colpo di stato del generale Videla, che lo costringerà alla clandestinità, durante la quale scriverà l'Eternauta 2, che per questo avrà temi molto diversi. E in questa intervista l'intervistatore, in questo piccolo brano, chiede a Hector se è una caratteristica voluta della sua opera consapevole il fatto che l'eroismo nasca dall'amicizia, dalla solidarietà. E Hector gli dice: ma me l'hanno fatto notare, deve essere una mia caratteristica. Pensandoci, probabilmente è una cosa che è dentro di noi, anziché ricercare, volere un eroe individualista, aggiungo io, un supereroe all'americana, che picchia tutti perché è i bomber. Qui il discorso è che l'eroe nasce dal gruppo, dalla convivenza e dalla situazione, dal fatto che si presenti un problema. E poi aggiunge che Juan Salvo, l'Eternauta, che dà il nome all'opera, non è l'eroe, è uno degli eroi, giusto, che si trova davanti a questo problema dell'invasione aliena e che, come gli altri personaggi, il suo eroismo sta nel cercare di trovare una soluzione, di reagire, di sopravvivere, di far sopravvivere anche gli altri, e che se c'è una figura eroica in particolare che forse risalta, è Franco, che è un operaio, un tornitore, perché è quello che nei momenti più difficili della lotta, della guerra, è quello che unisce la capacità di azione al coraggio e alla determinazione, cosa che non manca a Juan Salvo, ma spesso è proprio Franco che fa quel passo in più. Vero. Ecco, diciamo che questo ci dà anche un po' lo spunto per iniziare a parlare un po' dei personaggi che compongono l'Eternauta. Quindi in realtà adesso qualcuno ne abbiamo già accennato, però iniziamo un po' a entrare nel dettaglio. Da dove cominciamo? Allora, il primo personaggio che vediamo in assoluto è lo stesso sceneggiatore, perché sì, io avevo saltato un passaggio prima come inizio. C'è questo trucco narrativo classico in cui arriva la storia allo scrittore e Hector è lì a tarda notte a lavorare a una delle sue sceneggiature, quando dal nulla sente un rumore e gli appare questo uomo biondo in tuta sulla poltrona di fronte alla sua scrivania. E questo personaggio è il vero protagonista, che è Juan Salvo o Kruner, il vagabondo dell'avvenire, che comincia a raccontargli la sua storia, che comincia in quella stessa strada, perché la casa dove Juan Salvo viveva è di fronte alla villetta schiera, sempre nel quartiere Vicente López, di Hector. Stiamo parlando di un quartiere della media borghesia, con villette a schiera, non dell'Argentina, delle Villas Miseria, con gli immigrati paraguayani. A questo arriveremo poi. Lui comincia a raccontare questa storia in cui appunto i quattro amici erano lì a giocare a truco e si insultavano, come qualunque giocatore di carte deve fare, perché cioè, non si può fare le cose per bene in modo educato. E mentre sono lì che ragionano, io ora ho preso i quattro, vai via qui, c'è questa nevicata mortale e i quattro personaggi sono Juan Salvo, che nell'edizione italiana è stato tradotto Juan Galvez senza nessun motivo. Io ho scoperto che questo Juan Galvez era un pilota argentino, non era nemmeno Fangio, non era nemmeno famosissimo, degli anni 60. Ma chissà perché? Queste sono le grandi domande. Abbiamo poi il professor Favalli che viene cambiato in Ferri perché per tutto il libro, il fumetto, è un tutto un ehi Fava, vien qua. E questo è stato scelto di evitarlo. Vabbè. Che poi chissà se solo noi toscani capiamo questa cosa. Perché... Non lo so, però ci sarà stato un toscano che avrà detto forse non è il caso. Che ha lavorato alla cura del volume. Un'altra cosa, lo dico così al volo, che è stata fatta. Nel volume italiano, la prima uscita del 77, la impaginazione è stata ribaltata da orizzontale a verticale e sono stati anche cambiati alcuni elementi fondamentali come l'epoca in cui si svolge, viene mandata avanti alla fine del XX secolo invece che a metà. Ah, perché invece in origine era ambientata fondamentalmente al momento in cui lo scriveva? Più o meno, sì, in quell'epoca lì, senza fare grossi spoiler, nell'immediato futuro. Ok. E altra cosa, proprio per questo spariscono dei riferimenti temporali, come per esempio Khrushchev su una rivista sulla scrivania, chissà perché proprio Khrushchev. E poi la radio viene modernizzata, diventa una radio a transistor. Ah, vedi. Questo però è la prima edizione italiana. E quindi, tolti questi due personaggi fondamentali a cui hanno cambiato il nome, abbiamo in casa il bancario Lucas Herbert e il pensionato Polsky. Per il resto in casa ci sono la moglie e la figlia dell'Eternauta, Elena e Martita. E niente, loro vedono dalla finestra, si accorgono che il vicino, che forse è Hector, ha aperto la finestra ed è morto dalla nevicata per aver inalato la neve, che anche la moglie va a vedere cosa sta succedendo e muore anche lei. E quindi loro la prima cosa che fanno è sigillare tutte le finestre e cominciano a armeggiare con questa radio per vedere se raccolgono informazioni, ma per il momento ottengono solo fruscii, e cominciano a lavorare alla creazione di una prima tuta stagna per poter uscire, vedere che succede, procurarsi le provviste. Cominciano subito a fare catalogare un inventario delle provviste che hanno in casa, ma il pensionato Polsky è preoccupato per la moglie, esce fuori e muore nel cortile, nel giardino. E lui è la prima vittima. E questa è la cioè prima, la prima, la vabbè. La prima vittima tra i personaggi che hanno un nome, sì. Anche perché lui era quello che proprio smania, cioè che non ce la fa, sì. Che è preoccupato per la famiglia, oddio, mia moglie che farà, piglia, scappa e viene punito così. Sì, gli muore, fa 20 metri, non arriva nemmeno alla strada, penso. A questo punto, con i dovuti preparativi, alla fine viene deciso con un sorteggio che sarà Juan Salvo il primo a uscire, perché ricordiamo che nessuno lo chiama Eternauta. No, certo. Lui è un piccolo imprenditore che si è trovato in questo disagio, si chiama Juan. E esce fuori per raccogliere le provviste, il buon fisico Favalli dice sì, però ragazzi non è che la gente è tutta come noi, solidale e tranquilla, a noi ci servono anche delle armi. Sicché... E qua inizia a entrare anche il tema della giungla selvaggia, per cui di fronte a un apocalisse, questo l'abbiamo detto anche in trasmissione parlando di altri temi, cioè di altri argomenti, altre volte, di fronte a un problema devastante, un'apocalisse, una guerra, ecco che le persone iniziano a scannarsi tra di loro. Questa è una tesi di base portata avanti un po' da tutti. Ecco, come prima dicevamo, stiamo parlando di un contesto storico in cui si passava da una dittatura all'altra. Insomma, c'era anche da capire perché la visione fosse quella, ecco. Sì. Poi si rivelerà che il professor Favalli non ha completamente torto, anzi, però nell'andare a cercare armi per introdurre un altro personaggio, Juan entra in questo negozio di ferramenta armi e sente battere da una botola e c'è il ragazzino Pablo, che è il garzone, che lui pensava essere il nipote del negoziante, che scopre essere uno schiavo che era stato rinchiuso nella botola per punizione. Quindi lo libera, lo vanno a riprendere trasportandolo, nel frattempo hanno fatto un'altra tuta insacchettato perché la nevicata non lo colpisca. E via via loro continuano così a gruppetti in due o in tre così a esplorare la città. Le donne stanno a casa perché le donne sì, sono donne, non devono rischiare, siamo negli anni 50, non facciamo casino. E loro tra l'altro litigano come litigavano con le carte, nel senso che a me sì. pare che comunque loro continuano a non essere così coesi, cioè sono lì che uno magari fa un passo avanti, gli altri dicono ma no, non sono d'accordo, litigano. Sì, ci sono anche delle invidie, senza stare a dire troppo chi e come, ci sono anche dei momenti di invidia. Tutte queste loro peripezie... andando molto sul breve, li portano a girare la città, a girare il quartiere, le zone limitrofe, procurarsi un camion. A un certo punto loro ricevono anche il messaggio radio che esiste una resistenza con quel poco e niente che rimane dell'esercito argentino. E a malincuore decidono di unirsi a questa pattuglia che perché a malincuore? Perché lascia perché la villetta non è così male, perché vanno incontro alla morte, perché lasciano a casa moglie, lui lascia a casa moglie e figlia. Comunque in questa pattuglia incontriamo altri due personaggi importanti, appunto il tornitore e l'operaio Franco, e un personaggio buffo e malinconico che è lo storico Mosca, che mentre succede l'impossibile davanti a mostri venuti dallo spazio, raggi traenti, dischi volanti, delirio, lui è preoccupatissimo di scrivere la storia di tutta la cronaca di tutto questo, e un minuto dopo la battaglia va lì: ma mi scusi signor Salvo, ma lei come ha fatto, a quale angolo di strada era quando sono arrivati i Cascarudos, che sono i primi mostri che incontrano. I Cascarudos sono delle specie di scarafaggioni grandi quanto più sì. o meno un uomo, di solito in branchi, che emettono un fastidiosissimo stridio, usano le armi e qualche volta quando cominciano a incontrarli più avanti. Il secondo nemico, mostro, non è la parola giusta, che viene incontrata è il Mano, che è stato tradotto in questa prima edizione con Col, non so perché, l'autore stesso diceva: io per i nemici ho usato i termini più semplici possibili perché... d'essere un senso di riconoscimento semplice per far pensare potrebbe succedere, però noi in Italia ce ne fottiamo. Ma Cascarudos per esempio aveva una traduzione? No, Cascarudos, io ho visto che nella nuova traduzione viene lasciato Cascarudo, ma è un termine riferito ai coleotteri, a insetti. Ah, ok, quindi esiste come termine, sì, sì, sì, sì, poteva chiamarli scarafaggi, okay, cioè, tranquillamente. Okay. I Mano sono invece degli umanoidi. No, scarabeo più che... Scarabeo, sì, scusami. Ah, vedi. Sono degli umanoidi che di solito gestiscono questi grandi tastieroni elettronici, questi centri di controllo, con i quali, per esempio... guidano le azioni dei Cascarudo, e si chiamano Manos o Mano perché hanno delle mani che arrivano a un terzo dell'avambraccio con una quindicina sì. di dita per mano. Paurissimo. Per mano, e per il resto sono degli umani con i capelli bianchi e ritti e la fronte alta. Per il resto lo stesso Hector dice: ci tenevo che fossero molto simili a noi, che potessimo riconoscerli. Per un motivo anche specifico, no? Per un motivo che poi scopriremo, che loro sono altri alieni soggiogati da questo personaggio che non vedremo mai, che sono gli Ejos, i loro, che sono a capo di questa invasione, e che hanno preso questo popolo e li hanno assoggettati iniettando loro una ghiandola che li porta alla morte nel momento in cui hanno paura, motivo per cui loro sono inflessibili nell'eseguire qualunque ordine, nel guidare gli animali, le truppe stupide, perché sono animali. Finché poi, se arriva un minimo pensiero di diserzione, muoiono sul colpo in 2 minuti. Questo è una cosa importante, perché chiaramente sono a loro volta schiavi questi alieni. Se non ricordo male, anche loro hanno subito la stessa invasione che sta subendo la Terra. Quindi potrebbe essere anche il futuro che prospetta gli esseri umani, se saranno mai conquistati. Scusa, i Carcaderos non erano invisibili? Non mi ricordo male? No, loro non erano invisibili. Cioè, poi, per continuare, ci sono poi i Gurbos. I Gurbos sono degli specie di giganteschi pachidermi dall'aspetto insettoide, che tirano giù i palazzi. Grossini. Il primo segnale della loro presenza è che trema la terra e resistono un po' a qualsiasi arma. Quello però che scopriamo è che il tema è il controllo. Parlavo appunto per Imano del centro dei centri di controllo, perché tutte queste bestie hanno dei trasmettitori di ordini di controllo. Infatti loro scoprono che se colpiscono il trasmettitore, per dire, dei giganteschi Gurbos, cominciano a ammazzarsi tra di loro. E l'ultimo nemico, che è il più simbolico di tutti, è l'uomo robot, perché si scoprirà che viene piantata nella nuca dei sopravvissuti catturati un dispositivo che li rende soggetti ai comandi della tastiera dei Mano e agiscono pienamente, ma con più astuzia rispetto agli animali, naturalmente alieni, e rispondono pienamente ai dettami degli invasori. Senza dare dettagli e troppi spoiler precisi, questi piccoli plotoni militari, mandando avanti i non militari come carne più sacrificabile, in realtà otterranno i risultati migliori. In giro per la città riescono a avanzare in varie aree, a ritirarsi, vincono delle battaglie anche all'inizio contro i Cascarudos e prendono anche una certa fiducia. A un certo punto si scopre che lo stadio Monumental, che è lo stadio del River Plate, è un centro degli invasori. Di questi Helios ancora non è che si sa così bene. Queste forze aliene hanno dischi volanti, raggi traenti. Loro però a un certo punto riescono a prendere lo stadio dopo lunghe e sanguinose battaglie e vengono attaccati da una nuova arma. Alla fine credo sia Juan Salvo a riuscire ad accorgersi che è l'illusione, che cominciano a combattersi tra di loro, a svisionare, però poi riescono a superare anche questo problema. Tra varie peripezie e tradimenti, l'esercito si muove di nuovo e alla fine il plotone quasi si scioglie perché le perdite sono insostenibili. C'è una nuova chiamata verso un'area sicura dell'esercito, che poi scopriremo non essere proprio questo. Il punto è quello, cioè non si sa mai se quello è vero, si sa mai se la persona che incontri è vero. Per esempio, l'unica altra donna che noi vediamo, se non nelle folle di uomini robot parlanti che vediamo, è una bella ragazza che comincia a parlare con Franco, che alla fine un mese non vede nemmeno una donna, diciamo, poi ci penso un attimo, era una donna robot, le spara e quelli gli dicono: ma che tu fai? E dice: no, guarda, perché li stavano attirando in una trappola. E trappola dopo trappola, alla fine ripartono tutti insieme anche a, tornando alla villetta di Vicente Lopez, insieme anche a Elena e Martita, verso quest'area sicura. Ma quest'area sicura non è un'area sicura, è l'ennesima trappola, e facendolo lo spoiler finale, succederà di tutto, molti personaggi si sacrificheranno. E Juan con Elena e Martita riesce a infilarsi in questa astronave, comincia a spippolare e sparisce in un'altra dimensione. Lui è nell'ultima scena che diventa l'Eternauta, perché si trova davanti a un omino in un altro pianeta, in un altro luogo dello spazio-tempo, e dice: ah, allora te sei l'Eternauta, perché è successo questo e questo, glielo spiega, e lui dice: ma... ah sì? Effettivamente, potrebbe. Sì, questo più o meno, molto in maniera molto rozza, è il nucleo centrale del primo libro. Tra l'altro, riascoltando un po' il racconto, mi è venuto in mente, ci sono tante cose simili a The Walking Dead, cioè tanti pezzettini ripresi da The Walking Dead. Poi è chiaro che gli argomenti sono diversi, perché in The Walking Dead è l'uomo, il mostro, e non sono gli zombie. Qui in qualche modo, anche qui si capisce, però qui è il potere, non è l'uomo. Poi è chiaro, è l'uomo che esercita il potere, però è un po' diverso. Però mentre me lo raccontavi, lo stadio, l'armeria... Sì, poi la quantità di armi negli Stati Uniti è un'altra roba, fuori di testa. Però no, al di là di questo, sì, questo elemento... Cioè, per dire quanto è stato importante quest'opera. C'è sicuramente una cosa importante in questo primo Eternauta, e anche nel secondo, perché è un rifacimento nel primo, è che i luoghi sono estremamente riconoscibili. Ci sono anche dei manifesti elettorali sullo sfondo, oppure a un certo punto arrivano in una piazza e dicono: no, ma qui c'era la manifestazione per la scuola pubblica contro la scuola privata. E che comunque te ti trovi in una cosa in cui, per uno di Buenos Aires, c'è stata la battaglia di Piazza Dalmazia, la presa dello stadio Flanchi, la disfatta di Piazza dell'Isolotto. Certo. E l'idea sua era anche perché uno sull'autobus passa davanti a dove succede, mentre legge il fumetto, che comunque aveva una tiratura enorme, si parlava di 300.000 copie. Quando a lui chiedono: ma te pensi che la tua scrittura sia a un livello alto o basso? E dice: ma guardiamo il numero di lettori, secondo me Borges vorrebbe sceneggiare i fumetti. Bella. Beh sì, la cosa che dicevi, che viene ambientato, oltre alla scelta dei personaggi, che come dicevamo più volte sono personaggi molto calati nella realtà, molto tangibili, che probabilmente potresti conoscere, ti sono familiari, anche i luoghi ti sono familiari, ti devono essere familiari, questa è chiaramente una scelta. Mentre invece quello che non è familiare ed è sconcertante è il pericolo che serpeggia, cioè il fatto che i veri nemici, chiamiamoli così, non si sappia mai chi sono veramente. Non... Cioè non è che arriva uno e dice: ora vi si invade, ok? Cioè, no. No, questi alieni non prevedono la diplomazia, in nessun caso. No. E questo è interessante, perché anche la dittatura non prevede una diplomazia. Sì, e poi non c'è una... oltre non c'è la contrattazione, come dire, ma non c'è neanche un controllo così tangibile, così ovvio, nel senso, tu parlavi spesso del controllo, che è chiaramente un tema angosciante, perché poi in realtà, ecco, io penso la sensazione che si ha, almeno a me, la sensazione che mi arriva addosso più tangibile dell'Eternauta è una sensazione di angoscia totale, sì, a cui non si sa dare bene una forma, e anche perché questo controllo è pervasivo e è, però non così ovvio, quindi non si capisce, cioè si scopre mano a mano, non si capisce come mai le persone a un certo punto si comportano in un modo che tu non pensavi, ti voltano le spalle, sì, sono tutti sì. Cioè, come mi immagino, non me lo voglio immaginare troppo, però durante una dittatura a un certo punto tu inizi a dire: ma che c'hanno tutti? Ma che succede? Ma com'è che la gente è sbroccata così? Cosa dicono? Ma l'ortolano sotto casa, che prima ci facevo un discorso, adesso mi fa dei discorsi assurdi, ma che è successo? Sì, e non c'è nemmeno un controllo così codificato, preciso, che ti aspetti come una distopia come 1984, esatto, dove lì c'è il partito e sai che non devi parlare di certe cose, mentre lì, se andiamo a vedere l'Argentina, abbiamo il colpo di Stato nel 55, poi andando al secondo Eternauta, la seconda versione dell'Eternauta è esattamente la stessa storia del primo, più apertamente politica, con anche simboli politici più visibili, gli americani gli vengono nominati apertamente, quando dicono che il continente è stato abbandonato, e ha un disegno espressionista horror molto molto più breve, probabilmente doveva essere un'ottantina di pagine contro 400, ma sarà molto meno perché siamo di nuovo in una dittatura militare che è iniziata nel 1966 e che finirà nel 69 più o meno, quando viene concluso l'Eternauta, che esce a puntate sulla rivista Gente, la dittatura del generale Onganía. Una delle cose che la farà crollare è il cordobasso, cioè i grandi scioperi con guerriglia urbana di Cordoba, perché ricordiamoci che la Fiat non ha fatto danni solo da noi. E arrivando, andando avanti nella storia dell'Argentina, ricomincia a esserci una parvenza di democrazia liberale per qualche anno, e a un certo punto nel 1973 c'è questo momento attesissimo, il ritorno del generale Juan Domingo Perón. Cosa succede? Tendenzialmente in Argentina un po' tutti sono peronisti, tolti il latifondo e la Chiesa e il Partito Comunista. E quindi i grandi gruppi peronisti di sinistra, che arrivano tranquillamente al marxismo, anche al marxismo libertario, con i gruppi peronisti di destra, che sono apertamente fascisti, si trovano entrambi all'aeroporto di Ezeiza ad aspettare il ritorno del grand'uomo, e, esatto, e naturalmente quelli di destra sparano a quelli di sinistra. Nel frattempo il vecchio muore, c'è un nuovo governo con Maria Estela, detta Isabella, Isabelita Perón, un governo debole. Il suo principale consigliere è un grande amico di Licio Gelli, si chiama López Rega, detto El Brujo, lo stregone, appassionato di astrologia e così via. Ora queste sono storie turpi, ricordiamoci Don Licio, però, perché in Sud America lo chiama Don Licio, è famosissimo. Pazzesco. E questo governo è instabile, dura un paio d'anni. L'organizzazione politica dei Montoneros, che è il principale partito del peronismo di sinistra, viene dichiarata illegale, quindi si sposta in clandestinità. Stiamo parlando di un partito di massa. La sinistra argentina è estremamente divisa tra ELN, le varie guerriglie hanno un livello di divisione enorme con tutti gli scazzi del post-guevarismo. Però andiamo avanti con un paio d'anni di questo governo e poi arriva il piano di ricostruzione nazionale, credo. Che bello, questo nome prelude sempre. Che ci ricorda quello che voleva fare il piano di rinascita nazionale, ed era spesso a Buenos Aires, era spesso in Vaticano, il Wojtyla aveva ottimi rapporti, ma chissà perché. E niente, due mesi dopo, circa dopo l'intervista che abbiamo sentito, questo piano di ricostruzione nazionale va al potere con il generale Videla, inizia la guerra sporca vera e propria. 76, è vero, nel marzo del 76. Tra l'altro, se vai a vedere le pubblicazioni argentine, questo periodo viene chiamato Los Años de Plomo, gli anni di piombo. Tra l'altro nel mezzo c'è un altro grande fumettista, perché c'è la Mafalda anche. C'è anche Kino, sì, c'è anche Kino, no, ma l'ambiente del fumetto argentino è incredibilmente ricco. Nonostante questo cambio di regimi continui. Avete ragione, grazie. Però Kino continua a scrivere fino alla fine degli anni 60, non viene censurato, non scappa, sì. se non sbaglio. Ma anche Westerheld continua a scrivere. Proprio a cavallo della dittatura, il primo Eternauta viene ripubblicato in libro ed è un enorme successo. Lui inizia a scrivere il secondo. In questo momento lui e le sue quattro figlie sono in clandestinità. Okay. Finiranno tutti e quattro desaparecidos, due di loro sono incinta, anche i due generi. E comincia a scrivere l'Eternauta 2, che da noi è pubblicato come Il Ritorno. E lo fa dalla clandestinità anche per altri fumetti, tipo Ci sono robe che lui viveva in, raccontano, lui viveva in semi clandestinità e a volte il fumetto andava a prendere la sceneggiatura, il disegnatore andava a portare le tavole a prendere la sceneggiatura e si trovava in mezzo a una retata. E per esempio lo dice un italo argentino, Juan Giovanni Zanotto, e praticamente lui scrive in clandestinità questo secondo Eternauta molto cupo, in cui lui va, lui Hector è il protagonista, va dai vicini a dire: ma te sei apparso in casa mia dallo spazio-tempo, mi hai raccontato questa storia nel 1963, e questi dicono: guarda che siamo nel 1959, dicono: guarda il vecchio pazzo di Palazzo di Fronte. Poi ci ripensano: no, ma vieni a giocare a truco con noi. Chiacchierano un pochino, a un certo punto si sente un rumore intorno alla villetta di Vicente Lopez, c'è una landa desolata e dentro metà della gente è sparita, sono rimasti Hector, l'Eternauta, Elena e Martita, e all'improvviso Juan è consapevole di essere l'Eternauta, ha acquisito dei poteri, percepisce la presenza delle intelligenze nella zona ed è incredibilmente forte e resistente. In questa landa desolata loro cominciano a girarsi, prima cosa dicono: ma non è che c'è la neve? Non c'è la neve. Buono. Scoprono che gli animali, le piante sono strani, la gran parte si sono estinti e quelli che sono estinti si sono super evoluti, pensano sia passato un secolo o due, le formiche fanno il miele, c'è della roba strana. All'inizio trovano degli umanoidi violentissimi e aggressivi, tornano a casa, poi non abbiano rapito Elena e Martita. Strano. Sicché ricominciano a girarsi e trovano un popolo semi-primitivo, stavolta amichevole, che è il popolo delle caverne. Il secondo Eternauta è un inno alla guerriglia contro la dittatura, in cui il popolo delle caverne cerca di abbattere la tirannia dei loro. È tutto molto più aperto, molto più esplicito, esplicito, cupo. L'Eternauta non ha più tutta questa empatia e solidarietà, ma se c'è da ammazzarli, c'è da ammazzarli. Se c'è da sacrificare qualcuno nella lotta, non stiamo a aspettare che il mio amico si sacrifichi eroicamente, o forse lo faccio io. No, no, se c'è da mandare qualcuno in prima linea, e va sacrificato, perché bisogna salvare l'umanità rimasta. Quindi da un certo punto di vista più cinico. Più disperato anche, forse. Sì, più bellico, apertamente bellico, perché difatti poi lui verrà prelevato nel 1977 dai militari, anche tutte e quattro le sue figlie, come altre decine di migliaia di persone, e credo rimarrà in vita per altri 5-6 mesi girando per 2 o 3 centri. Questo da testimonianze di altri prigionieri che l'hanno visto quando avevano quei 5 minuti per togliersi la maschera dalla faccia, poter vedere la luce e fumare una sigaretta, perché è Natale. Perché è Natale. Vabbè, sono tutti più buoni a Natale. Sì, sì, sì. Non sì. Metterò le disnumer. No, ora non è adatto. E sì, per il secondo è sicuramente molto più cupo e diciamo che la necessità della violenza viene percepita da subito senza l'intervento del professor Favalli e viene anche accolta di buon grado. Perché la situazione è quella. Beh sì, è tutto già più ovvio. Diciamo che se prima viene scoperto piano piano, come dicevi, adesso invece sì, siamo già nel mezzo degli eventi, già sappiamo cosa. E invece la figura degli uomini delle caverne in qualche modo è la descrizione di un'involuzione della società? Beh sì, è una cosa che forse può ricordare alcuni film del Pianeta delle Scimmie. Cioè, loro sono i sopravvissuti secoli dopo, uno o due secoli dopo la nevicata, Buenos Aires è praticamente sottoterra. Infatti lui, avendo nella villetta l'elenco del telefono, c'ha gli indirizzi, poi va a recuperare degli oggetti. Ah, certo. Della roba così. E loro sì, perché quando trovano un oggetto tecnologico è preziosissimo. Questi vivono di pesca, caccia e raccolta e sono schiavi degli Ejos che li mandano, vogliono tot quintali di pesce. Ok. se vogliono delle persone, vogliono delle persone, datemi 20 giovani. Sì, è una società che è in buona parte ritornata a livelli quasi primitivi, ma è un primitivo post-apocalittico, sì. Certo. Anche cioè, Wesh un po' ricorda La macchina del tempo. Sì, che è una delle principali ispirazioni. Eh sì, certo, evidente. Certo. Ci sono molte analogie. Ma cominciare dal fatto che era socialista Welsh, tra l'altro. Sì. Certo, e beh, quindi, come dire, qui siamo sulla l'Eternauta il ritorno, come la chiamiamo qui in Italia. A questo punto forse non so se staccare adesso e prenderci l'ultima parte della puntata per parlare dell'accoglienza, del come, di che effetto ha avuto l'Eternauta effettivamente su chi lo leggeva, o se vogliamo aspettare, non so, vogliamo iniziare a introdurlo ora oppure no, dai, fermiamoci un secondo e vai. Poi partiamo con l'ultima parte di questa prima puntata, direi. Evviva, rimanete qui con noi, Porta di Tannhäuser, parliamo dell'Eternauta. Joe, Rieccoci qua alle porte di Tannhäuser, stiamo parlando dell'Eternauta e siamo in fase avanzata a questo punto, ma rimanete con noi perché c'è un'ultima parte legata agli effetti, che queste opere hanno avuto, no, dicevamo, e un po' le pubblicazioni. Tra l'altro ci siamo dimenticati, dicevamo fuori dai microfoni, di un'altra opera che però volevamo citare, che era C'è. Del 69. Sì, è un'opera fondamentale che forse ha segnato il destino di almeno uno dei suoi autori, perché lo stesso Breccia, nel periodo in cui Westerhelde stava per entrare in clandestinità, si incontrano e dice: ma c'è le copie di C'è? E ha detto: no, l'ho bruciate. Perché queste, se me le trovano in casa. C'è è un fumetto del 1969, biografico, molto realistico, diretto, disegnato, scritto da Hector Hermann Westerhelde e disegnato da Alberto Breccia con il figlio Enrique. Con il figlio Enrique, che è un signor disegnatore ancora in attività, e lo stesso editore, di cui ora mi sfugge il nome al volo, del fumetto C'è, nel 1976, con l'arrivo della dittatura, viene arrestato e rientra in una serie di fumetti, tra cui per esempio Una vita di Evita. Comunque Westerhelde era un grafomane e produceva centinaia di fumetti continuamente, e stava producendo anche una serie di vite dei grandi personaggi latinoamericani, uno su Evita, c'è una storia dell'America Latina anticoloniale in cui l'eroe ovviamente è Perón, perché è prima che succeda quella cosa dell'aeroporto di Ezeiza, in cui l'arrivo di Perón consiste con la distruzione della sinistra argentina. Va anche detto però che il Partito Comunista guardò quasi di buon occhio l'arrivo della dittatura nel 76, perché essendo i peronisti nazionalisti, tutto sommato un po' di ordine, come si direbbe negli omonimi anni di piombo italiani, va bene, perché sti capelloni fanno casino, c'è da andare d'accordo con i cattolici, rimettiamo le cose a la posto, la Fiat, la Mercedes, noi vogliamo un paese ordinato e austero soprattutto. E quindi dicevamo, come è stato accolto, cioè ci si aspetterebbe, si diceva fuori dai microfoni, che un'opera del genere, torniamo un attimo all'Eternauta che è il centro del discorso di oggi, un'opera del genere in quegli anni lì, in quel contesto lì di cui abbiamo parlato, venisse censurata, silurata e in qualche modo messa a tacere. Invece tu ci dicevi, ma neanche più di tanto, anzi forse praticamente per niente, si sono accontentati di prendersi gli autori, ecco. Allora, tendenzialmente no, e consideriamo che comunque inizia a uscire durante una dittatura militare anche nel 57, per, secondo me, per varie ragioni. Prima cosa perché il potere dell'epoca sottovalutava il fumetto, per quanto fosse la forma di cultura popolare più diffusa. Secondariamente perché il suo enorme successo rendeva anche una cosa scomoda. Andare difficile a censurare una cosa che piaceva così tanto, viene ripubblicato a puntate sulle riviste. Poi viene pubblicato un'altra volta in volumi in Argentina negli anni 60 e poi viene fatta questa seconda versione disegnata da Breccia, che però ha due problemi. Uno è un problema di censura di livello politico, anche perché lì i riferimenti politici sono più aperti, più diretti, e un altro è che il pubblico, questo disegno espressionista tendente all'horror, essendo abituato al disegno più naturalista di Solano Lopez, non lo accetta in buona parte. In effetti è strano come disegno, somiglia un po' a Un po' più pesante da leggere. Sì, quasi toppi, cioè, sì. Strano. Sì, è vero, brava, c'è un po' di toppi. Sì, c'è un qualcosa sacco, in comune, sì. Un'altra opera di successo esce nel 62, sempre della stessa coppia, con un tema molto simile, che è Mordsinder. Mors Inder è questo eroe che viaggia nel tempo, viene fuori l'altro protagonista è Ezra Winston, è un antiquario, viene fuori da uno scarabeo egiziano, comincia a arrivare questo uomo che viaggia nel tempo e ci sono le varie avventure. Anche qui il tema fondamentale lo vediamo soprattutto, senza stare a raccontare nell'episodio Lo Socos de Plomo, Gli Occhi di Piombo, è il controllo, la corruzione, la sottomissione dell'uomo. È lo stesso dell'Eternauta, funziona in modo diverso, il viaggio nel tempo va verso il passato, finisce alle Termopili. Alle Termopili c'è Frank Miller che ci mangia ancora sopra dicendosi l'erede di Breccia, che per carità prima o poi smetterà di mangiare, perché succede a tutti. No, si spacca un po' presto. Questa è un'altra opera fondamentale, l'opera fondamentale di Breccia. E paradossalmente nel 76, quando viene ristampato il primo e poi inizierà a uscire l'Eternauta e il Ritorno, che non ha un grande successo, anche perché comunque era pericoloso andarla a comprare in libreria in quel momento, però il primo Eternauta stampato in libro nel 1976, durante la dittatura di Videla, vende a sacchettate, mentre l'autore Desaparecido e Solano López lo scrive ricevendo le sceneggiature da uno che è in clandestinità e cerca di recuperare attraverso amicizie, perché lui aveva fatto l'accademia militare, quindi conosceva qualche militare, il figlio. Lui appena riesce a recuperare il figlio, che era anche lui un militante montonero, poi sceneggerà dei fumetti anche il figlio, lui piglia e va in Spagna. In Spagna è caduto Franco, la lingua la parla, ha lavorato anche in Inghilterra, la prima cosa da fare è andare via, prova a dirglielo probabilmente anche a Hector, ma è troppo tardi. Certo. Questo è, sì, assolutamente. Tra l'altro il pezzo che ho mandato prima, che si intitola Quando pasa el temblor. Il primo? No, il secondo, il pezzo. Secondo. Il secondo pezzo. Vuol dire quando passa il terremoto, il tremore. E il testo, se avete voglia di andarvelo a cercare, è degli Stereo Soda, pessimo nome, però... racconta un po', ha quest'area un po' che c'ha l'Eternauta, quindi il muoversi fra macerie in distese di niente, che rappresentano un po' anche quello che c'hai dentro, la distruzione che hai ricevuto dentro, e quindi racconta un po' l'importanza di riuscire, la speranza, scusate, di trovare poi invece la serenità dopo il terremoto, appunto, dopo le preoccupazioni date da vicende pesanti. È del 2007 questo pezzo, quindi è chiaro che non si lega per forza, però sono argentini, quindi in qualche modo nel sangue lo sentono, ecco, vista la storia che abbiamo anche raccontato attraverso il fumetto dell'Autornauta stasera. Sì, oltre alla distruzione che hai dentro, anche la distruzione dei rapporti sociali che hai intorno, il aver paura di parlare di qualunque cosa con il tuo prossimo, perché in un posto simile dove c'è un colpo di stato ogni tot, la delazione è un attimo. E l'altra riflessione è questa: ma quindi gli spagnofoni tendono a fare colpi di stato? Ma... no, perché, e la Francia, Franco, il Sud America, ora è vero, c'è colpa degli americani principalmente, però quante dittature si è visto anche là? Beh, lì c'è anche la fragilità dei regimi postcoloniali, appunto, bravo, esatto, il cugino di sopra anglofono. Sì, sì, certo, assolutamente. E poi vabbè, certo, hai accennato prima degli americani che hanno in quella situazione lì abbandonato, quindi la sensazione di aver abbandonato il Sud America, quando poi non è un vero abbandono, ma magari, piuttosto esatto, è il riuscire a distruggere chi vogliono distruggere, poi chi c'ha il potere tutto sommato, basta gli mandi le risorse in qualche modo, tenga aperte. È quello che accade tutt'oggi, tra l'altro, nel Sud America, no? Destabilizza, cioè, e controlla. Sì, esatto, cioè, non, assolutamente non sono un difensore di Maduro, ma è un po' anche questo meccanismo qua, no? È anche che noi le privatizzazioni le facciamo senza colpi di Stato. Sì. Vero? Sì, sì, è vero, è vero. Non ne abbiamo bisogno. È vero, direi che abbiamo approfondito un bel po' e mi sembra un viaggio piuttosto come dire, completo, per quanto siamo riuscite all'interno del mondo dell'Eternauta, ci restano in realtà diverse cose da dire, perché come si diceva prima, e soprattutto nei mesi in cui ci siamo preparate, cioè, in realtà più che sì, l'Eternauta ovviamente, però ci interesserebbe anche approfondire altre opere, diciamo, dopo l'Eternauta, per quanto possibile, o comunque intorno all'Eternauta, sia magari che sono state ispirate dall'Eternauta, ma sia invece degli stessi autori, per provare anche a capire altri mondi un po' meno conosciuti, perché effettivamente l'Eternauta è un po' la punta dell'iceberg, perché lo conosciamo anche meglio, ma c'è tutto un mondo che personalmente io non conosco per niente, immagino anche diverse persone che ci seguono. Sì, ci sono molte cose da vedere, e molte sono legate in un modo o nell'altro all'Eternauta, sia dagli autori, perché comunque Solano Lopez ha lavorato fino ai primi anni 2000, e questo tema comunque di unire il fantastico, che sia un mondo di solito di fantascienza distopica, al problema del controllo, della dittatura, di queste entità non meglio chiare, che controllano aliene, che controllano il popolo e lo spingono a combattere contro se stesso, soprattutto nelle opere di Ricardo Barreiro, ma anche in altre, viene fuori spesso, e comunque nella fantascienza argentina temi di lotta politica sono spesso presenti, più o meno chiari, più o meno diretti, ma ci sono, e questo è figlio dell'Eternauta quanto della società argentina, ovviamente. Della storia che hanno vissuto, certo. Beh, direi che quindi c'è sufficiente materiale per fare almeno un'altra puntata, ma chissà quante, però ve ne promettiamo almeno una. E quindi ti ringraziamo moltissimo per questo contributo e per questo lungo racconto, e a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima. La prossima puntata è il 22, giusto? 22 dicembre. Non ne ho idea. Sì, ho qui davanti il calendario, e quindi ci diamo appuntamento appunto tra 15 giorni, quindi il 22 dicembre, sempre alle porte di Tannhäuser, e a presto. A presto, grazie. A parte super voglia di rileggere, mi è venuta una voglia di rileggere tutto, è enorme, quindi grazie mille davvero. Grazie a voi. E quindi avevamo ragione, è chi ne sa di più nella galassia. Lo sapevamo. Lo sapevamo. E no, va bene, grazie davvero sia a voi ascoltatori e ascoltatrici, ma insomma a tutti coloro che sono qui intorno alla regia. Ci sentiamo il 22, rimanete comunque connessi a Radio Wombat, ci sono tante cose da ascoltare, tra cui vari fonti radio, insomma ci sono tante cosine, quindi non perdetevi. Purtroppo attualmente in onde medie non ci potete sentire per problemi tecnici che ciclicamente ci arrivano addosso, ma stiamo lavorando per voi. Ogni volta, non grazie a me, ma risolveremo la questione. Quindi un saluto, un buon batta a tutte e tutti. Ciao. Ciao. Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare e ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.